9 in punto. La politica nel tunnel. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano e dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. Buongiorno care ascoltatrici e cari ascoltatori, oggi parleremo del voto per il Quirinale, vedremo di capire quali sono le prospettive, che cosa può succedere naturalmente, interpelleremo tre esponenti delle principali forze politiche, ad esclusione del Movimento 5 Stelle, da dire che insomma molto correttamente avremmo dovuto avere anche un deputato del Movimento 5 Stelle questa mattina, poi ha avuto un problema personale ieri e quindi insomma non è potuto essere con noi, insomma comunque non lo facciamo per escludere una forza politica da questo confronto. Prima però di occuparci di questo, vi voglio leggere una lettera che mi è arrivata ieri a proposito dei suicidi di imprenditori e che ho trovato bellissima, lo confesso con molta franchezza, mi ha addirittura emozionato nel momento nel quale l'ho letta. Ed è una lettera che ci arriva da un'ascoltatrice che si chiama Giulia. La trovate poi anche sul nostro sito www.radio24.it o anche sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/9in.radio24. Oggi, dopo aver sentito al telegiornale dell'ennesimo suicidio di un imprenditore sopraffatto, ho improvvisamente realizzato che forse potrei, dovrei mettere a disposizione degli altri il percorso che mi ha portato dalla disperazione alla felicità di una nuova vita fatta di nuovi e più profondi valori. Ho chiamato il numero verde antisuicidi della Regione Veneto per offrire il mio aiuto e mi hanno detto che una testimonianza di chi come me ce l'ha fatta potrebbe dare speranza e conforto e mi hanno consigliato di scrivere a voi. Ho perso tutto 10 anni fa, l'attività di famiglia nella sua chiusura forzosa e tragica, con un concordato intriso di sudore, lacrime e morte, si è trascinata dietro tutto. Avevo un figlio di pochi mesi e ho perso il lavoro e la casa, ma ciò che è peggio, ho perso il mio matrimonio e mio padre. Non ce l'ha fatta, è morto d'infarto poche ore dopo l'ennesima brutta notizia, schiacciato da una procedura fallimentare che ha poco di umano e che umilia e lacera più del dovuto, più del comprensibile, più dell'accettabile. Forse il matrimonio no, ma mio padre poteva salvarsi. Se solo avessimo vissuto quella sciagura con uno spirito diverso, capendo che finiva una società non delle persone, che finiva una fase della vita non la vita. Se fossi stata più forte e più saggia avrei potuto focalizzare l'attenzione sulla vita, sulla famiglia e sull'amore, queste erano le ricchezze più grandi. Se avessi saputo farci scivolare addosso tutto il male e il dolore che ci pioveva sopra, mio padre ora sarebbe vivo, ne sono sicura. E allora, se la mia esperienza, se il mio essermi lavata al fiume del dolore, della povertà, dell'angoscia e dell'umiltà, se questo può aiutare qualcuno a non buttare via la sua vita, se può aiutare qualche padre a non morire sopraffatto, allora devo parlare, devo raccontare, devo dire di come una vita distrutta possa tornare a pulsare, di come si possa uscire da quel tunnel del buio che fa desiderare di chiudere gli occhi per sempre. Sono viva per mio figlio, ma ora più che mai sono felice di esserlo soprattutto per me. Sono una persona diversa, più povera senza dubbio, ma in realtà molto molto più ricca e felice, spogliandomi delle ricchezze, nuotando nella melma contro le istituzioni e le procedure, imparando a gestire la vergogna e la sopraffazione, con l'unico obiettivo di togliere più sofferenza che potevo dal cuore di chi amavo, ho scoperto come si possono vivere con serenità e con gioia le piccole cose. Ora ho una vita felice, una nuova famiglia e anche un lavoro che mi dà una discreta soddisfazione, ma prima di tutto sono in pace con me stessa, mi voglio bene e tutto ciò che mi accadrà in futuro mi troverà più forte e determinata. Io non sono migliore di altri, perciò credo fortemente che tutti possano salvarsi da vicende così traumatiche. Non bisogna morire per questo. Se potessi aiutare, non dico a salvare una vita, anche solo ad alleggerire il cammino di qualcuno dandogli una luce di speranza, lo farei volentieri. E speriamo che la lettura di questa lettera, una luce di speranza, e adesso sono io a parlare, la dia a qualcuno e porti un po' di conforto. Noi passiamo da questa, ripeto, bellissima lettera, la trovate anche sul nostro sito, se potete fatela girare perché a mia opinione molto molto importante, insomma, in una fase nella quale si tende a farsi prendere dalla disperazione. Iniziamo a parlare di politica, di Quirinale. Signor Giuseppe Garibaldi, chi è? Io? Ma chiamatemi Peppino perché il cognome mi agita. Cos'è, per un controllo? Siamo in regola, eh? Ho la licenza, col bolino. Ah, per la trota, dite? No, ma io la stavo ributtando, guarda. Vai, bella, vai. Ecco. Senta, lei dovrebbe venire a Roma con noi, adesso. Ma cosa, ho vinto quel concorso coi bollini? C'è stato un disguido, lei... Lei è stato eletto... Come si può dire? Lei è stato eletto presidente del... Ma come l'avevo fatto a fare sta stronzata? Sì, sì, lo so, il presidente del Carpa Diem, il circolo di pesca. Ma ho già spiegato ai miei amici che rinuncio. Troppa responsabilità, troppe carte da firmare. No, lei è stato eletto presidente della Repubblica Italiana. Ed eccoci, iniziamo con uno scherzo, se volete una clip da Benvenuto Presidente, ma Benvenuto Presidente con Claudio Bisio, e però con l'inno nazionale a ricordarci anche il momento solenne che si sta per vivere, si sta per eleggere il Presidente della Repubblica, una figura che guiderà il Paese per i prossimi 7 anni. Sandro Bondi, coordinatore del PDL, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti coloro che ci ascoltano. E buongiorno ad Andrea Olivero, coordinatore di Scelta Civica. Buongiorno a tutti. Benvenuto anche a Felice Casson, senatore del PD. Buongiorno Casson. Buongiorno a tutti. Allora, io inizierei a questo punto da Andrea Olivero. Ieri vi siete incontrati a lungo con Angelino Alfano, che vi siete detti? Beh, abbiamo fatto un po' un'analisi di quella che è la situazione, andando a valutare quali sono le possibilità per raggiungere fin dal primo scrutinio l'elezione di un Presidente della Repubblica scelto con una larga intesa. Questo è il nostro auspicio, perché il Paese, lo sappiamo tutti in che condizione è, sappiamo che in questo momento chiede alla politica un segnale di unità che in qualche modo dia la garanzia sul fatto che si scelga un Presidente che per 7 anni possa essere il segno di questa unità nazionale, dall'altro lato anche un Presidente in grado di avviare quel percorso verso un governo che è certamente auspicato dalla maggioranza dei cittadini e che credo sia necessario sempre di più. Questo è stato un po' il ragionamento, abbiamo fatto chiaramente qualche ipotesi sul metodo, sulle modalità per arrivare a questo risultato già a partire da domani mattina. Su Olivero, qualche nome l'avrete fatto con Alfano, no? Ci mancherebbe, saremmo folli a non farlo, ma bisogna essere altrettanto seri nel dire che i nomi questi giorni sono stati tritati e massacrati anche troppo, e mi pare che non sia corretto andare da questo punto di vista anche noi ad associarsi a questa metodologia sbagliata. Mi scusi, Olivera, io questa è una cosa che non capisco, glielo dico francamente, ho visto un bel pezzo di qualche giorno fa, un bel editoriale in realtà di Giuliano Ferrara sul Foglio, forse non sarà sfuggito nemmeno a lei, si intitolava Quirinale, governo e inciuci, siamo a circa una settimana fa, 11 aprile, nel quale, e mi riferisco soprattutto alla prima parte, diceva, signori, questo metodo di scelta dell'uomo che guiderà appunto la Repubblica per i prossimi 7 anni e che avrà anche dei poteri che Napolitano, se vogliamo, con quello che alcuni considerano uno strappo, ha reso più forti, ed è una trattativa che si fa al buio, nell'inciucio, nel sotterfugio. Non è il caso anche di cambiare questo metodo e iniziare a fare qualche nome, a tirar fuori qualche nome? Ma io credo che bisogna anche qui guardare attentamente alle modalità che sono state stabilite per l'elezione del Capo dello Stato. Noi abbiamo molte forme per scegliere appunto figure pubbliche attraverso ampie consultazioni, attraverso direttamente la scelta dei cittadini. Qui è una scelta di secondo livello, lo si fa andando in Parlamento a fare delle proposte. Credo peraltro che da oggi la questione cambi, nel senso che immagino che nei gruppi parlamentari di tutte le forze politiche i nomi si faranno, si discuterà. In una prima fase, quando si tirano fuori delle ipotesi, ci sono delle rose di nomi, non mi sembra così sbagliato che si possa avere anche un certo riservo, anche perché, ribadisco, non è che dobbiamo andare a esporre tutti i nomi che ci saltano in testa, a volte di personalità personalità anche grandissime, importanti che hanno servito lo Stato, metterle immediatamente dentro al gioco mediatico. Certo, adesso bisogna farlo, ma ci sono appunto tempi opportuni per ogni cosa. Peraltro credo anche che il dibattito nei partiti politici, almeno ci sono tutte le premesse, sarà tutt'altro che scontato, quindi credo che per la democrazia sia uno spazio grande, ecco, anche per i cittadini, per capire come ciascuno vorrà votare. Sandro Bondi, innanzitutto le giro la stessa domanda che ho girato ad Olivero sul metodo. Insomma, non è il caso di innovare? Io non sono un appassionato di Movimento 5 Stelle, così come non lo sono di nessuna forza politica, perché faccio il giornalista, e però almeno, per quanto la scelta possa essere discutibile, no, di Milena Gabanelli, almeno il metodo è trasparente e si sa costoro chi voteranno almeno nelle prime due votazioni. Non è il caso di cambiare un po' questo metodo di lavoro per l'elezione del Presidente della Repubblica? Ma io credo che l'importante sia raggiungere un risultato positivo, e credo che in questi casi risalta la funzione della politica e la responsabilità delle grandi forze politiche. Un conto è fare un sondaggio, un conto è fare una scelta che preservi gli interessi generali del Paese in un momento così delicato. Le forze politiche oggi in Italia possono dimostrare di essere forze politiche responsabili a fronte di quello che sta accadendo, proprio dimostrando di saper scegliere la persona giusta in questo momento, e attraverso un metodo che è il metodo di ricercare una più ampia intesa possibile, soprattutto per trovare e individuare una persona che sia in grado di rappresentare tutti gli italiani. Questo è lo sforzo che dobbiamo fare tutti. Una persona, un Presidente della Repubblica che per le sue capacità, per la sua autorevolezza internazionale, non solo in Italia, per la sua moralità, per le sue doti umane e personali, sia in grado di rappresentare tutti gli italiani e sia in grado di soprattutto di aiutare il Paese, la politica, a superare le divisioni che hanno caratterizzato la vita politica in questi ultimi anni. Un Presidente che aiuti il Paese a superare la crisi. Questo è il punto importante. Bondi, l'ipotesi Cassese che sta circolando in queste ore, vi piace? Cioè, un'ipotesi che considerate valida? È un candidato interessante, lo potreste votare? Come profilo, dico, come profilo. Ma ecco, il profilo è ineccepibile del professor Cassese, ma credo che il risultato emergerà appunto da un confronto fra tutte le forze politiche. Se, come io spero, come io credo, in questa occasione come in altre, le forze politiche sapranno davvero far prevalere il buonsenso piuttosto che gli interessi di parte, e dimostrarsi coerenti con quello che tutti dicono a parole, cioè di voler trovare un Presidente della Repubblica attraverso la più larga intesa possibile su un nome che rappresenti tutti gli italiani. Quindi se questo metodo, se questo spirito emergerà e si realizzerà concretamente, coerentemente, penso che potremo essere soddisfatti, e penso che potrà essere eletto il migliore Presidente possibile in queste circostanze. Se passano Prodi o Rodotà, sarà guerra, immagino, da parte vostra. Ma non è una questione di guerra o anche di fare delle contrapposizioni sui nomi, perché ogni persona deve essere rispettata come persona. Io penso che se è vero che quello che tutti dicono, e cioè che bisogna mettersi d'accordo, trovare insieme, come poi impone del resto la Costituzione, un Presidente che sia l'espressione di una più larga, di una più ampia maggioranza, allora penso che questi nomi in questo momento non garantiscono quello che si dice, quindi bisogna trovare delle persone, dei nomi, delle personalità che invece, sulle quali invece tutti possano riconoscersi, o il più grande numero possibile di forze politiche possano riconoscersi, e soprattutto il più largo numero di italiani possano riconoscersi, una figura davvero sopra le parti politiche, una figura che possa rappresentare tutti gli italiani. Vede, quando diciamo una figura che possa rappresentare tutti gli italiani, è una cosa, dirla è semplice, ma sì, è quello che ci vuole in questo momento, cioè sì, una figura che possa davvero traghettare l'Italia verso, al di là delle spaccature, delle divisioni che purtroppo per responsabilità varie hanno caratterizzato la vita politica in questi anni, che poi è la ragione per la quale, cioè, queste spaccature alla fine impediscono di trovare quella collaborazione, quel confronto che serve al Paese. Adesso poi torneremo da lei, naturalmente la trasmissione, come sapete, dura fino intorno alle 10, insomma abbiamo ancora mezz'ora. Vi ricordo l'800 24 00 24 per intervenire in diretta. Chiudiamo il giro prima di andare in pausa pubblicitaria con Felice Casson, cioè, tra l'altro ex magistrato, ci sono una marea di giuristi candidati e papabili in queste ore, Rodotà, Cassese. Soprattutto Rodotà Casson è un nome votabilissimo per il Partito Democratico, cioè col Movimento 5 Stelle si potrebbe arrivare ad una convergenza su quel nome là. Io sono assolutamente d'accordo sul valore e la validità della persona, sulla professionalità, la serietà, e che sia un nome votabile per il Partito Democratico non ho dubbi. Credo che ci siano dei passaggi istituzionali e parlamentari diversi tra domani e i prossimi giorni, nel senso che la stessa Costituzione, che prevede che ci siano due momenti istituzionali, in prima battuta pensa a quella che è l'impostazione della più ampia convergenza possibile tra tutte le forze politiche rappresentate dai grandi elettori, e quindi c'è necessariamente questa ricerca politica della massima convergenza attorno a una figura che possa rappresentare l'insieme del Paese, l'unità nazionale. Se questo passaggio dovesse andare a vuoto, è la Costituzione stessa che prevede che a un certo punto si voti con una maggioranza pur ampia, però certo non quella qualificata dei due terzi, e quindi che ci sia una riduzione anche del consenso. In questo ambito i nomi che sono stati fatti sono tanti. Il Partito Democratico si è dato un metodo, nel senso che già un paio di settimane fa noi siamo passati attraverso dei passaggi con i gruppi parlamentari, abbiamo ragionato sul metodo, che cosa scegliere, quale strada seguire, e con, secondo vari step poi muoverci e decidere che cosa fare. E questo passaggio è stato rinnovato in questo fine settimana, nel senso che i nostri rappresentanti dei gruppi alla Camera e al Senato hanno contattato tutti i grandi elettori, tutti i parlamentari, per uno scambio di opinioni, e quindi è venuto fuori un panorama anche abbastanza ampio. L'ultimo passaggio ci sarà questa sera con una riunione dei gruppi parlamentari di Camera e Senato qui a Roma, con l'aggiunta dei grandi elettori che rappresentano il centro-sinistra, e quindi si deciderà come impostare la giornata di domani. Credo che il metodo utilizzato sia chiaro, sia trasparente e vada nel senso previsto dalla Costituzione. Se porterà un risultato è quello che ci auspichiamo tutti quanti. Però non mi ha risposto sul nome di Rodotà. No, ho detto che è validissimo, si può benissimo, l'ho detto proprio in apertura, sì. Tra l'altro io ho una grandissima stima del professor Rodotà per quello che ha fatto, che rappresenta, per la sua personalità. I passaggi parlamentari sono questi. 9 in punto. Iniziamo a sentire qualche ascoltatore. Partiamo innanzitutto da Facebook. Pierluigi ci scrive che i vecchi partiti fanno quadrato perché se una persona estranea a giochi del ventennio trascorso dovesse diventare presidente salterebbe il coperchio e il banco. Quindi stanno facendo carte false a partire dai parlamentari incompatibili e stanno raccontando balle agli italiani perché devono eleggere un uomo di quel sistema. Questa l'opinione di Pierluigi che ci scrive su Facebook. Altri attaccano Beppe Grillo. Caro Beppe Grillo, ora non avrai più dubbi, il Movimento 5 Stelle è un elettorato predominante di sinistra che con tutte le cautele possibili vorrebbe un governo con Bersani. Sentiamo anche Salvatore che ci chiama da Salerno, buongiorno. Salve Spezia. Senta, io volevo soltanto dire, non è che il nome, io un nome che preferisco, però non vorrei che la candidatura della Gabanelli fosse utilizzata come un fatto di colore, di folklore. Mi pare che anche Reagan è stato eletto presidente degli Stati Uniti in America, ma Gabanelli, tra l'altro, anche se si conoscono le sue direzioni politiche, sa benissimo che che ha rivolto i suoi strali contro chiunque, non contro il tizio, il caio del momento, contro chiunque avesse commesso delle cose che lei pensava che fossero abusi, insomma, ecco. Poi se mi consente con un'osservazione, Spezia, io sento sempre, spesso, tutte queste trasmissioni, sento tanti esperti, tanti politici, eccetera, che dicono il cosa si deve fare, ma non dicono mai come si deve fare. Facciamo, aumentiamo i posti del lavoro, riduciamo le tasse, facciamo il reddito minimo, eccetera, ma come? Io, secondo me, esiste una sola possibilità per fare tutte queste cose insieme e poterle far partire l'economia italiana. È una cosa che non so se legalmente vale e non so nemmeno se tecnicamente si può fare, non sono esperto. Eliminare la moneta. No, vabbè, insomma. Salvatore, guardi, adesso non abbiamo tempo. Magari un giorno faremo anche una puntata sull'eliminazione della moneta, chissà mai, insomma, però adesso non abbiamo tempo di entrare su questo, insomma. Sembra un po' curiosa come idea. Alessio dalla provincia di Pescara, buongiorno. Buongiorno. Breve, mi raccomando, breve. Ci provo. Allora, io sono un attivista del Movimento 5 Stelle della vecchia ora, dal 2009. Nel 2011 ho anche contribuito, sono stato uno dei cofondatori del movimento nel mio comune, che è la quinta città d'Abruzzo, come in termini di abitanti. Allora, io sono stato in queste settimane abbastanza critico all'interno del movimento per questa posizione, diciamo, di voler restare all'angolo da parte del movimento, che l'ho ritenuta autolesionistica. Perciò vedo molto molto positivamente l'apertura di ieri di Beppe Grillo, che non ha fatto un ricatto nei confronti del PD e di Bersani, piuttosto gli ha teso la mano. Quindi adesso il PD e Bersani hanno un'occasione storica, non ci incischino. E accettino questa sfida, votino, appoggino l'elezione della Gabanelli, ma io penso poi di Rodotà in realtà, perché non credo che la Gabanelli accetterà, e dimostrino veramente di voler attuare un governo di vero cambiamento, perché un governo PD-PDL sarebbe un obbrobrio, e peggio di un governo PD-PDL c'è solo un governo PDL, e purtroppo gli sondaggi stanno dando il PDL in fortissima crescita, quindi il PD non deve cincischiare. Grazie Alessio, saluto il professor Paolo Becchi, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Professore ordinario di filosofia del diritto all'Università di Genova, come sapete vicino al Movimento 5 Stelle. Allora, professor Becchi, diciamoci la verità, quello su cui si punta è Rodotà, non sono Gabanelli e Gino Strada, anche le parole di Grillo di queste ore sembrano dirlo abbastanza nitidamente. Ma no, io credo che per rispetto degli elettori e di coloro che hanno votato, chiaramente i candidati sono la Gabanelli e Strada. Certo che se queste due persone dovessero rinunciare, il terzo candidato immediatamente Rodotà, però anche nel messaggio che ha lasciato ieri Beppe Grillo, rivolgendosi a Bersani, il nome era ovviamente di chi ha vinto le cosiddette quirinarie. Quindi dipenderà da che cosa decidono di fare questi due candidati, che sono due candidati che ben esprimono, come ho scritto io, il cuore del movimento. Ma il movimento non ha solo il cuore, ha anche una testa, e la testa ha votato, diciamo così, per Rodotà, ecco, ma il cuore è più forte, e ha preso una magnifica donna, la Gabanelli, è un uomo che ha tanto credito nel movimento, Gino Strada. Un cuore, dicono in molti, professore, che per definizione batte a sinistra, ma in questo caso batte a sinistra davvero, insomma, a vedere i nomi, no? Beh, sì, questo è un dato di fatto che non possiamo negare. Il movimento è anti-ideologico, cioè perlomeno nei suoi principi non è né di destra né di sinistra, però non si può, è un dato di fatto che tra le persone che sono uscite, insomma, il cuore batte effettivamente a sinistra, questo è un dato che non si può contestare. Cioè persino Romano Prodi VIII. Sandro Bondi, sì. Io immagino che voi la consideriate più o meno una boutade questa cosa della Gabanelli, ma insomma, dall'impressione che abbiamo, Rodotà sembra un nome possibile, probabile. È un nome che vi dà garanzia oppure no, quello di Rodotà? Io questo vorrei capirlo, però. Beh, intanto mi permetta di dire che ho molta stima del professor Paolo Becchi come uomo di cultura. Proprio in questi giorni sto leggendo due suoi interessanti libri, editi da Morcelliana, su morte cerebrale, trapianto di organi e sul testamento biologico. Ci tenevo a dirlo questo perché ho stima del professor Becchi. E per quanto riguarda la sua domanda, io credo che qui ci sia un problema di fondo, che lo stesso professor Becchi ha in qualche modo espresso, cioè qui c'è nel fondo un orientamento anche dell'elettorato del Movimento 5 Stelle a favore di uomini, di personalità, di leader della sinistra, perché è inutile negare che sia la Gabanelli dal punto di vista giornalistico, sia il professor Rodotà dal punto di vista più esplicitamente politico, sono uomini di sinistra, anzi di una sinistra radicale, una sinistra che non si identifica necessariamente col PD, una sinistra che ambisce ad essere una sinistra più radicale nei confronti di certe posizioni e di certe realtà del paese. È evidente che se noi cerchiamo un uomo, come dicevo prima, capace di rappresentare il più possibile il popolo italiano, questi candidati non garantiscono questo esito finale. Insisto, sarà una cosa banale e semplice, ma è la sostanza di quello che noi poniamo quando diciamo, soprattutto riguardo al Presidente della Repubblica, cerchiamo di metterci, di trovare insieme un nome che possa davvero rappresentare tutti, uomini, cittadini di centrodestra, cittadini di sinistra, perché se noi scegliamo un'altra volta a capo della nostra Repubblica un uomo di sinistra, dopo aver scelto a capo del Senato e della Camera uomini di sinistra, anch'essi esplicitamente di sinistra radicale, vuol dire che si vuole diciamo rinchiudere in un recinto una parte che maggioritaria del popolo italiano, che si riconosce invece in altre istanze culturali e politiche. Non mi sembra che sia molto intelligente voler questo in questo momento, in cui, lo ripeto, sarebbe necessario trovare una, se vogliamo affrontare questa crisi, superare gli steccati, le divisioni e cercare un terreno, anche se pur minimo, di collaborazione e di intesa. Sì, non riusciamo a tirarle fuori un nome, ma immagino che sia complicato in questo momento, insomma, però io vorrei capire se, per esempio, qua si parla di Amato e D'Alema, se per esempio Amato e D'Alema sono due ipotesi che vi garantisco, pur essendo di sinistra, insomma, avendo una storia di sinistra, sono due ipotesi che ritenete che vi possano garantire. Dico questi nomi, vede, purtroppo qui c'è anche una sudditanza culturale del centrodestra in Italia, purtroppo. Ecco, questo è un altro punto, Bondi, no, questo è un altro punto interessante, perché non siete riusciti a tirar fuori dei nomi vostri, al di là di Gianni Letta, che esce praticamente per quasi tutte le cariche, insomma è un nome che esce fuori per quasi tutte le cariche, non siete riusciti a tirare fuori un nome vostro che fosse anche votabile dagli altri. No, ci sono dei nomi nostri, vede, però il problema è più profondo, se mi permette. Qui c'è un ostracismo culturale, prima ancora che politico, nei confronti del centrodestra, della cultura del centrodestra, degli esponenti di centrodestra, perché noi stiamo sempre parlando, sempre, anche quando si dice che sono nomi che possono andar bene a noi, parliamo sempre di uomini di sinistra. E quando viene fuori un nome, diciamo, liberale, riformista, eccetera, come Letta, dottor Letta, che è una persona di grande equilibrio istituzionale, verso il quale nessuno potrebbe dire niente, o come il professor Marcello Pera, che è stato presidente del Senato, che è un uomo, un laico aperto agli grandi interrogativi della fede, è una persona di grande equilibrio, di grande moralità e di grande intelligenza, e scatta l'ostracismo. E questo è un problema di fondo che non risolveremo certo qui in coincidenza con l'elezione del Presidente della Repubblica, ma è un problema che esiste. E di cui noi siamo in qualche modo, noi siamo quasi portati ad accettare questo ostracismo. Casson, per lei una domanda. Io non riesco a capire, perché si è parlato molto delle divisioni all'interno del Partito Democratico sul nome di Romano Prodi, io non riesco a capire. Ah, è caduto Casson. Vabbè, io volevo capire da lui, poi la domanda gliela girerò, com'è possibile che il PD si divida sul nome del suo padre fondatore, sostanzialmente. 9 in punto. Abbiamo parlato tanto di metodo, io però sto cercando di tirar fuori qualche nome, perché il nome è importante, fa parte, è il risultato del metodo, per carità di Dio, però insomma, il punto è esattamente quello sui nomi. E quindi ad Andrea Olivero, poi ritorniamo da Casson, che forse abbiamo recuperato, gli giro quella domanda, gli chiedo se nei nomi che stanno circolando c'è qualcosa che Scelta Civica ritiene soddisfacente. Anche perché dal punto di vista dei numeri, passate le prime due votazioni nelle quali diamo quasi per scontato che non avremo un presidente proprio per la maggioranza qualificata che ci vuole, a quel punto il vostro partito potrebbe diventare, anzi è determinante. Tra questi nomi che stanno girando, Amato, Cassese, D'Alema, uno di questi tre potete ritenerlo di garanzia oppure no? Beh, dal punto di vista appunto dei nomi, sì, io posso dire che questi non sono nomi che non ci piacciono, nel senso che hanno sicuramente delle caratteristiche di alto prestigio, hanno quella apertura, quella grande attenzione che dobbiamo avere in questa fase anche alla valutazione internazionale, al profilo di alto livello. Bisogna verificare attentamente se su questi nomi si è intesa, e poi bisogna un po' anche discutere su quale stagione aprono. Questo diciamo è forse anche il dibattito più politico che c'è dentro anche alla questione del Quirinale, perché se c'è un aspetto che un po' viene trascurato in questa fase, che noi abbiamo bisogno di un presidente che garantisca l'unità, che ci faccia convergere, che ci aiuti a fare un governo, ma anche in qualche modo che il più possibile ci traghetti verso una stagione nuova. Il settennato di Napolitano da questo punto di vista è stato interessante, perché il presidente si è dimostrato che poi alla fine non è soltanto propriamente un notaio, ma è anche qualcuno che in alcuni momenti, senza forzare la Costituzione, però utilizza fino in fondo le sue prerogative e che può aiutarci a fare un passo in avanti, ecco. Però poi è chiaro che dobbiamo usare i dati di realismo, come noi l'abbiamo detto al Partito Democratico nelle settimane scorse, dicendo che in base al realismo era assurdo pensare ad un governo senza il PDL, così bisogna anche oggi constatare, lo dico a Bondi senza polemiche evidentemente, ma anche che nel Paese sicuramente ci sono dei dati probabilmente, anzi sicuramente diversi, l'abbiamo visto nei dati elettorali, ma in queste Camere che oggi appunto sono chiamate a votare il Presidente c'è una netta maggioranza di centro-sinistra, quindi non è innaturale che si scelga innanzitutto a partire da nomi di questa provenienza. Sul nome di Prodi Scelta Civica non ha nessun problema? Non abbiamo problemi sul nome, assolutamente, il punto è sempre la questione del metodo, cioè Prodi può essere eletto con una maggioranza ampia, e questo è il punto vero, e noi puntiamo su questo con grande determinazione, perché crediamo sia l'unico modo in questa fase per far sì che si archivi quel bipolarismo. Quindi la condizione sine qua non di Scelta Civica è che ci sia anche l'accordo del PDL sul nome. Beh, in questa fase sicuramente sì, noi spingeremo fino in fondo in questa direzione, il che non vuol dire che tutti quelli che hanno il consenso ampio ci piacciano, però intanto dico che il consenso ampio è un fattore indispensabile in questo momento, ma se lo chiede la Costituzione, è stato ricordato molto bene da Casson prima. Sara ci chiama da Udine, buongiorno. Buongiorno, io volevo intervenire sulla questione sui nomi che sono stati fatti, che sono principalmente quelli di Prodi e Amato. Sento da stamattina che bisogna scegliere una figura e un presidente che sia condiviso e l'espressione della volontà della maggior parte degli italiani. In realtà io penso che sia l'espressione, questi due nomi, della maggior parte dei politici di vecchio corso. Ricordo che Prodi nel 92, se non sbaglio, ha fondato la società Nomisma, e con grandissimi conflitti di interesse tra la figura pubblica di Prodi e quella di presidente, diciamo, di questa società. E quindi non mi sembra una figura integra dal punto di vista morale. Non parliamo poi di Amato, che ha 31.000 euro di pensione al mese, di cui 9.000 sì, vitalizio, e pensa di risolvere il problema delle persone che hanno 400 euro al mese di pensione sulle spalle degli italiani, con un altro 6% di contributi da versare per aiutare queste persone, e non a tagli verticali delle pensioni di lusso, diciamo. E queste sono... Sì, è caduta Sara, abbiamo capito il ragionamento, che insomma abbastanza duro anche su presunti conflitti di interesse, poi in realtà mai veramente confermati, di Romano Prodi. Giulio da Milano, buongiorno. Buongiorno. Questo ultimo intervento rafforza quello che stavo per dirvi. Pronto, posso parlare? Come no? Sì, sì. Sono francamente un po' sconcertato da questa esigenza di trasparenza a tutti i costi in un processo di trattativa che secondo me deve essere condotto con un pieno riservo, e non si può pensare di propalare i nomi, buttarli in pasto alla gente, come le critiche che questa che mi ha appena preceduto fa. Che siamo di fronte a un populismo sfrenato che brucia i candidati su delle questioni totalmente rilevanti dal punto di vista della loro capacità di coprire l'incarico che stiamo proponendo loro. Io penso che anche dal punto di vista vostro, della stampa, questa continua richiesta, apriteci le porte, la trasparenza, le trattative si fanno riservatamente e solo in questo modo si può pensare di arrivare, come speriamo tutti, a un risultato abbastanza condiviso da poter interpretare i pareri e le possibilità di tutti. E quindi lasci concludere, ma sì. È come se volessimo sostituire il primario di un ospedale che ha avuto magari qualche fenomeno di nepotismo con il l'uomo delle pulizie, che perlomeno è onesto, non ha avuto, ma non si può, a un certo punto abbiamo, grazie Giulio, abbiamo ancora un minuto e mezzo, quindi in 10 secondi chiedo ai nostri ospiti 3 vaticini, se ci vogliono stare. Paolo Becchi, chi sarà il prossimo Presidente della Repubblica? Non lo so, è un'incognita perché Bersani è talmente debole che non ha potuto proporre nessun candidato serio a Berlusconi. Rodotà, buone possibilità? Purtroppo, ahimè, credo che resterà un sogno. Sandro Bondi, vaticinio. Ma non faccio nessun vaticinio, spero solo che sia una persona per bene, una persona che sia autorevole. E che non sia Prodi, molto. Immagino. E che non sia Prodi, sì. Grazie Sandro Bondi. Andrea Olivero, il suo, chi esce? Avessi il nome, sarei sicuramente molto contento, perché in qualche modo potremmo aiutare a risolvere più facilmente. No, non lo so. Quello che è certo è che sarà molto difficile arrivare all'inizio a un risultato, perché il caos è ancora grande. Alla fine ce la fa Prodi, secondo lei? Alla fine ce la fa Prodi, secondo lei? Sì o no? Io ritengo di no. Grazie anche ad Andrea Olivero. Noi chiudiamo qua questa trasmissione. Grazie a Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Tulli in redazione, le ragazze del Centralino. Scusi Lorenzo, la provincia di Milano che ci ha chiamato, non siamo riusciti a farlo intervenire. Andate sulla nostra pagina Facebook e fate circolare sul nostro sito la lettera della nostra ascoltatrice che abbiamo letto in apertura, che è bellissima. Ci sentiamo domani. Ricordati! Mancano 74 giorni all'aumento dell'IVA. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano e dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. Radio 24. La passione si sente.